Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Una tecnologia di condizionamento che funziona con acqua, sale e il calore del sole. Buonasera, benvenuti a Smart City. È stata messa a punto dal Politecnico di Torino in collaborazione con l'INRIM, quindi l'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica, ed è stata descritta in un articolo su Science Advance. È una tecnologia a basso costo e funziona senza consumare elettricità. Ma a differenza di altre tecnologie di raffrescamento solare o passivo, si stanno facendo diverse ricerche da questo punto di vista, questo approccio permette prestazioni analoghe, diciamo, a quelle dei sistemi di condizionamento tradizionali in termini di capacità di raffrescamento, ed è un sistema questo in grado di funzionare bene anche in zone molto calde e umide, dove spesso i sistemi passivi di raffrescamento falliscono, che però insomma sono le zone dove c'è più bisogno di condizionamento. Ne parliamo con Matteo Fasano, che è ricercatore presso il Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino. Buonasera Fasano. Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori. Dunque Fasano, le chiedo di spiegarci in linea di massima come funziona questo sistema. So che è un sistema modulare e che il modulo di base è una specie di sandwich. Sì, il principio di funzionamento di questo dispositivo si basa sul raffrescamento per evaporazione di un liquido, che è un principio noto ormai da millenni. Infatti già i romani usavano questo principio grazie a delle anfore porose attraverso cui evaporava una frazione di vino, e grazie a questo piccolo sacrificio si permetteva di mantenere il vino fresco. Quindi noi non abbiamo fatto altro che cercare di portare nel nuovo millennio questo principio, ingegnerizzarlo e implementarlo all'interno di questa struttura a sandwich, a panino. Questa struttura è fatta da uno strato sottostante che è un panno idrofilico, quindi che è in grado, come i panni che usiamo a casa, di assorbire in maniera molto efficiente l'acqua e sfruttare il processo capillare, l'effetto capillare, per portarla all'interno del dispositivo. In questo panno noi teniamo dell'acqua a bassa salinità, ad esempio l'acqua da bere, l'acqua distillata. Sopra questo panno viene posta una membrana che viene detta idrofobica, ma che in sostanza fa passare del vapore d'acqua, quindi alla forma, allo stato gassoso. Quindi non passa l'acqua liquida, ma passa il contenuto di vapore di quest'acqua distillata o comunque dolce. Esattamente. Contenuta nella spugna sottostante. Passa il vapore, non passa il liquido, e tiene separata la parte inferiore della membrana dalla parte superiore. Nella parte superiore invece c'è un piccolo strato in cui viene immessa dell'acqua salata, acqua ad alta salinità, e grazie a questa differente concentrazione di sale tra la parte inferiore alla membrana, che è quella del panno capillare, e invece la parte superiore dove si trova dell'acqua salata, l'acqua spontaneamente tenderà ad evaporare dalla parte più dolce verso la parte più salata, e questa evaporazione porta a raffrescare il dispositivo. Questo è l'effetto che si determina con questa sorta di sandwich. Voi però potete poi sovrapporre tanti di questi sandwich, come si fa con le pile quando si vuole aumentare il voltaggio, se ne mettono tante una in fila all'altra. Voi potete fare la stessa cosa per ottenere invece più freddo, è corretto? Esattamente. Il segreto, il trucco sta nel, diciamo, avvolgere questo sandwich dentro degli strati di alluminio, quindi che è un materiale ad alta conducibilità del calore, che quindi trasporta il calore con molta efficienza, metterli uno sull'altro e farli lavorare in parallelo. Quindi ciascuno farà, diciamo, creerà una certa capacità frigorifera che si andrà a sommare tra tutti gli stadi. E quindi facendo una sorta di effetto leva e moltiplicando l'effetto di raffrescamento per evaporazione che si avrebbe in un singolo stadio. Quindi in ogni stadio noi abbiamo una sorta di anfora in cui stiamo facendo evaporare parte del vino per raffrescarlo. È come se aveste messo un'anfora dentro l'altra, diciamo, in questo caso. Ogni anfora raffredda un po' di più. Tra l'altro tutto questo sistema non ha parti in movimento, da quello che ho capito. L'unica cosa che si muove lì è l'acqua, che però viaggia per capillarità. Esattamente, questo tipo di dispositivo è quello che viene nell'ambiente, diciamo, chiamato come passivo, ossia che non utilizza dei componenti meccaniche in movimento, ad esempio delle pompe, delle elettrovalvole, scambiatori di calore complessi, ma invece cerca di sfruttare fenomeni, tra virgolette, naturali, quali ad esempio la capillarità, l'evaporazione, la traspirazione e la stratificazione, ad esempio, dell'acqua salata a seconda della concentrazione del sale che vi si trova all'interno. E quindi non richiede elettricità per funzionare. Non richiede dei materiali complicati, non richiede in prospettiva anche delle manutenzioni complesse per poter funzionare. È improbabile che si rompa, quando non ci sono parti in movimento è più difficile che un oggetto si rompa, diciamo così. Sì, diciamo che nell'ingegneria meccanica tipicamente si cerca sempre di andare a evitare organismi in movimento e ancora peggio se sono degli organismi in movimento, ad esempio in presenza di acqua salata o in presenza di Certo. ambienti corrosivi, perché questi possono minare l'affidabilità delle macchine. Dove vedete applicata questa soluzione? Vediamo sostanzialmente due possibili scenari. Un primo è quello, diciamo, più elevata tecnologia, in cui questo tipo di dispositivo potrebbe essere aggiunto ad attuali frigoriferi o impianti di condizionamento che sono tipicamente realizzati con dei cicli frigoriferi a compressione. Inserendo questo dispositivo di fianco al cosiddetto condensatore di questi frigoriferi a compressione, potremmo raffreddare ulteriormente a una temperatura ancora più bassa, eventualmente anche inferiore a quella dell'ambiente, il fluido refrigerante, così aumentare l'efficienza di questi dispositivi. Questo è uno scenario appunto più industriale, ma noi, vista la poca complessità del dispositivo e visto che anche richiede poca manutenzione, dei materiali poco nobili, tra virgolette, pensiamo che potrebbe anche servire in località isolate dalla rete, magari in paesi in via di sviluppo, dove per piccole esigenze di raffrescamento, e penso ad esempio, non so, il mantenere freschi i vaccini, mantenere in temperatura alcune medicine, alcuni alimenti, sia possibile magari accoppiare questi contenitori, questi frigoriferi di fortuna, con il nostro dispositivo. Va bene, grazie, grazie Matteo Fasano. Grazie, grazie, buonasera. E allora, cari ascoltatori, abbiamo concluso anche per questa sera. Ci diamo appuntamento a domani. Buonasera anche da parte mia.